Last Minute, altri suoni per quanto riguarda la 34esima edizione di Angelica. Permettetemi due parole per il concerto di lunedì 6 maggio al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, ovviamente a Bologna, dove Silvia Emmeloot, contraltista, saxofonista, compositrice danese, accompagnato da un ensemble proveniente dalla Norvegia con la curatela e i contatti portati da Luca Vitali, che ringrazio e saluto, sono stati protagonisti e protagoniste veramente di una serata. La narrazione concreta e allo stesso tempo onirica, emotiva, strutturata in maniera estremamente colta, originale, unica, un percorso ad Angelica che ha permesso di conoscere veramente altri suoni e passeggiare in un giardino dove il rapimento è stato totale. Una gran bella edizione e un gran bel concerto. Non finisce ovviamente qui, anzi ne diamo anticipazione nell'eterogeneità dei suoni. Troveremo questa sera alle ore 20:30 al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, ovviamente, Lea Plave e Tiziano Teodori, Exhalation, il nome del progetto, delle sonorità e dei percorsi, con una protagonista americana di base a Den Haag. Supera questo ruolo tradizionale di violoncellista dedicandosi a progetti interdisciplinari e interculturali. Spaziando da un repertorio classico, ne sentiremo alcuni passaggi, ho portato due assaggi musicali per quanto riguarda tradizione di repertorio classico, ma anche sguardo all'elettronica e ovviamente un aspetto tradizionale extraeuropeo. Tiziano Teodori, musicista, suona flauto barocco e a Den Haag con l'ensemble La Favorita post-rock nel duo Pollution. Lavora come compositore alle sovrapposizioni tra i processi di sintesi e con l'elettronica nella manipolazione di suoni registrati. Poi il programma della serata offrirà altri motivi di incontro e di ascolto con musicisti più giovani dall'Olanda, Art Strootman, e dagli americani Austin Franklin e Christopher Cerrone. Intanto ascoltiamo un po' di musica per quello che sarà il motivo musicale di Lea Plave e Tiziano Teodori, Exhalation. Assicuro che nel contesto del Teatro San Leonardo, con un gioco di luci incredibile, la parola giusta è il rapimento totale, la curiosità, il conoscere, il farsi coinvolgere. Vi ho detto, la serata prosegue con tre opere di compositori molto giovani, giovani, nati tra gli anni 80 e i 90, più giovani di me sicuramente. Art Strootman, gli americani Austin Franklin, ne ho citato prima anche Christopher Cerrone. Questo per la serata di oggi. Poi Jaap Blonk, un cantante, poeta, artista visivo olandese, porterà continuità ai motivi della serata di oggi per quanto riguarda Angelica, insieme al chitarrista Terry X, che è stato uno dei fondatori della band anarcho-punk The X nel 1979. Thank you. Cambiamo registro per quanto riguarda domani, sempre al Teatro San Leonardo, centro di ricerca musicale, sede per quanto riguarda Angelica, giunta alla 34esima edizione, Dorothy Moskowitz and the United States of Alchemy, il lavoro Under an Endless Sky. Sotto questo cielo infinito troveremo musiche, emozioni, sogni, un paesaggio molto weird, folk, da quello che ho ascoltato, e non solo. È una produzione di Angelica, la curatela è di Walter Rover. Il progetto Dorothy Moskowitz and the United States of Alchemy nasce dall'incontro tra Dorothy Moskowitz, voce degli United States of America, una voce molto particolare, la sentiremo a breve, autori di un unico LP nel 68, considerato una pietra miliare della psicadelia elettronica, e Francesco Paolo Paladino. Grande lavoro questo, che veramente dà una spazialità di immaginifico, di weird folk, di elettronico, di spaziale, se vogliamo, per la serata di domani, in questo caso sabato 11 maggio ad Angelica. Disappearance of Fireflies, il brano che stiamo ascoltando e che ci porterà alla conclusione di questo piccolo spazio ma intenso dedicato a Angelica per questa sera alle ore 20:30. Dorothy Moskowitz and the United States of Alchemy, Under an Endless Sky. Beh, buon sogno, buon ascolto. Appuntamento al Teatro San Leonardo, centro di ricerca musicale, che è stato presentato non solo per questa sera ma con la partenza già del weekend per la serata odierna. Ovviamente potrete riascoltare con il link che sarà sul mio profilo e sulla pagina Facebook del Breakfast Club. Tra pochissimo un Last Minute che allo stesso modo ci propone altri suoni. A tra poco. Limitless in spite of men.